63. Spaghetti con le telline. Poiché si sentono ricordare spesso come minestra asciutta di magro, anche gli spaghetti con le telline mi converrà indicarveli, sebbene a gusto mio sia da preferirsi il riso. Se vi piace provarli, tritateli minuti per poterli portare alla bocca col cucchiaio e servitevi della ricetta numero 72, cuocendoli nell'acqua dove sono state schiuse le telline. Scolate l'acqua superflua, conditeli con quell'intingolo unito ad alquanto burro e parmigiano.